Ok, benvenuti a questo speciale momento, non so neanche se definirlo episodio del podcast Il Focolare Elettrico, il nostro podcast di videogiochi e game design, con io che sono Marco. Io a sorpresa sono Jacopo. Sorpresa. E niente, Jacopo ha fatto partire la registrazione perché io a mi ero casaccio. Messo a casaccio, non a casaccio, perché io mi ero messo a parlare di Outer Wilds. E per lasciare, non so, memorie ai posteri, alle generazioni future, abbiamo deciso di registrare quello che stavamo per dire. Il che mi costringe a trovare qualcosa da, come dire, creare un discorso sulla cosa. Aspetta, cioè, io il motivo per cui ho fatto partire la chiamata è che è un gioco che abbiamo apprezzato entrambi, è un gioco che ti ho quasi costretto a giocare io. No, vabbè, non costretto a giocare, però... Sì e no, mettiamola così. Cioè, ti ho stimolato, magari avevi già intenzioni, avevi già idee. Secondo me la piegazione perfetta è che è questa. Cioè, io ero assolutamente intenzionato a giocarlo, ma per quelli che non mi conoscono, da mia indole e natura, sono un procrastinatore cronico e volendo sempre aspettare, non so, di trovare una di GPU per il mio computer, continuavo a rimandare, chissà, forse l'avrei giocato tra qualche anno e avremmo aspettato a fare questo episodio, esatto, fino a che non mi fossi deciso. Mentre il gentilissimo Jacopo qui, come la mia mamma la faceva da piccolo, mi ha spinto un po' fuori dalla mia zona di comfort slash attesa, e regalandomelo per il compleanno mi ha dato l'opportunità di giocarlo, perché ovviamente una volta che ce l'ho tra le mani, dopo io sono esattamente l'opposto, cioè poi non riesco a trattenermi dopo, quindi grazie Jacopo, perché come stavo appunto accennando a lui, Outer Wilds è uno, secondo me, di quei giochi che per definizione, cioè, se uno lo gioca bene, e con bene intendo che si interessa un minimo alla storia e non lo fa meccanicamente come può giocare a un Assassin's Creed o un Call of Duty, è uno di quei giochi, secondo me, che non te lo scordi finché campi, veramente. E penso sia lecito dire che, secondo me, a questo punto, visto che noi due, nasceva come una discussione tra noi due, questa è una puntata piena di spoiler, cioè nel senso non faremo attenzione agli spoiler in questo mini episodio, o in questo contenuto aggiuntivo, non so come definirlo. Per cui se non l'avete giocato, vi prego, ma proprio con tutto me stesso, spegnete immediatamente il podcast e se poi vi ricorderete di noi, tornateci se volete sentire quello che le cazzate che abbiamo da dire dopo averlo giocato, perché questo è una testimonianza di quanto speciale è questo gioco, cioè che se lo prendi come esperienza pura, senza sapere nulla, senza esserti spoilerato nulla, e ancora faccio fatica a credere di esserci riuscito nonostante un anno, se ormai è passato appunto più di un anno. Beh, quasi, è comunque un indie, cioè, va bene che è un gioco bellissimo che piace a tutti, però non è un gioco AAA, cioè. Esatto, e sai cosa? Vabbè, adesso ci arrivo anche a questo. Stavo dicendo sì, se si riesce a giocare nella sua forma più pura, ovvero senza conoscere niente, senza veramente sapere nulla a riguardo del gioco, è un'esperienza che secondo me raramente si potrà ripetere, a meno che, e la speranza è sempre quella, non dia un po' una spinta a un nuovo filone di giochi, un po' come hanno fatto altri, come è già successo in passato con altre in altri casi, mettiamola così. Senta. E come dicevi tu, infatti, Jacopo, dicevi, è un gioco indie, non è un AAA, non ha avuto questo, come dire, non è stato così, non ha così spopolato come tanti altri. E sì, prima di tutto, ovviamente, sarà sicuramente perché non c'ha dietro il team di marketing della Bethesda o del... La Bethesda è un brutto esempio, visto i trailer che ci hanno proposto alle tre ultimamente. Diciamo, team di marketing di altre case produttrici molto più grandi, con molto più soldi, e questo è poco ma sicuro. Ma allo stesso tempo è l'eterna maledizione di quei giochi che un po' fanno da innovatore, no? Nel senso che il limite tra come dire, il nuovo e lo strano è sempre sottile, perché sempre, c'è sempre quella sensazione appunto di poca familiarità, poca, di avere qualcosa di diverso tra le mani, e questo può essere allo stesso tempo interessante, allo stesso tempo allontanare una parte del pubblico, e questo è innegabile. E in questo caso, forse, insomma, questo quadro l'hanno anche gestita bene, perché effettivamente sembra partire semplicemente quasi con un piccolo, non so neanche come definirlo, vedi, è quello, faccio fatica a categorizzarlo quasi. Si può dire un gioco, un quasi un puzzle game, ma non proprio. Sì, no, ne abbiamo già parlato, Marco, questa è la cosa bella. Perché ti ho già detto che nella puntata abbiamo parlato dei puzzle e dei giochi che hanno un sistema di level up o di exp. Abbiamo parlato di sistemi che non hanno un vero e proprio level up, ma si basano sulla conoscenza del giocatore. Cioè, se il giocatore sa tutto, può finire subito il gioco, o meglio, non ha nulla che il gioco gli deve dare. Quindi facciamo l'esempio di Sekiro, dove il fatto di sapere il moveset dei boss, ovvero le abilità che hanno i boss, come si muovono, che attacchi fanno, eccetera, e sapere il ritmo del sistema di parry, no? Di blocco, di cioè ti dà una marcia in più enorme quando fai il new game. Ma quello si può dire di qualsiasi, ma in realtà di qualsiasi gioco un po' più, diciamo, RPG, no? Di quelle con le che si. No, perché alcuni di... giochi. No, perché di quelli... giochi... Aspetta, fammi finire. Di quelli che vengono un po' definiti RPG, a volte anche un po' impropriamente, nel senso che magari se uno conosce ubicazioni di equipaggiamenti, sa dove, conosce trucchi, magari dove andare a zone dove andare a livellare, cose del genere, un gioco cambia molto. Ma finisci pure quello che volevi dire. No, non è questo che intendevo, perché un conto è dire che io so dove andare per ammazzare Ganon. Un conto è dire posso andare ad ammazzare Ganon ora subito in 5 minuti in Zelda, no? Esatto, perché in Sekiro tu hai tutto dall'inizio. È vero che ci sono molti oggetti che ti aiutano, puoi usare per fare il famoso cheesing, no? Cioè per sconfiggere in maniera facile, però generalmente gli strumenti che hai per ammazzare un boss, per ammazzare un nemico, sono. Sento un rumore strano, Marco, scusami. Aspetta, dammi un attimo. Di static. Allora non lo sento più. Cioè, generalmente gli strumenti che hai per ammazzare un nemico o un boss li hai fin dall'inizio, in un gioco come Sekiro. Questo concetto è portato all'estremo con Outer Wilds, quindi è vero che è un puzzle, ma è un puzzle il gioco stesso in un certo senso. Non è che il gioco contiene dei puzzle, perché in realtà il gioco è un gioco di esplorazione. È forse, o almeno a mia conoscenza, perché magari ci sono stati altri giochi che ci hanno provato, ma non ci sono riusciti così tanto, è il primo gioco che ho incontrato in cui veramente tutta la progressione, tutto il sistema di progression è esterno al gioco, ovvero che è tutto all'interno del giocatore, perché non ci sono sbloccabili, non ci sono armi, non ci sono equipaggiamenti, non ci sono abilità, non ci sono livelli, esperienze, chi che sia, da appunto ottenere dentro al gioco, ma tutto ciò che ottieni dal gioco è la conoscenza del gioco stesso, che viene immagazzinata nella mente del giocatore all'esterno, e che poi ti permette di raggiungere uno dei possibili finali. E questa In cosa, realtà, cioè per me uno. Il finale è uno solo, però vabbè. Sì, no, beh, diciamo il finale canonico, il finale, come dire, la good ending, se così si può dire, è una sola, ovviamente. E poi ce ne sono altre, ma quello che intendevo è prova a immaginare, cioè, se una cosa fosse stata non so, descritta così nel negli anni 2000, inizio anni 2000, forse gli avrebbero un po' riso in faccia. No, c'erano già dei giochi che non potevi avere un sistema di progressione, quindi dovevi sapere già dove andare, cosa fare, eccetera. Però è diverso perché è il punto del gioco, non c'è una limitazione tecnica, anzi c'è un sistema quasi alla immersive sim, cioè un simulatore immersivo spaziale, quindi di viaggio spaziale, che sembra quasi creare artificialmente nella tua testa il concetto di livello, il concetto di quest, no? Perché anche tipo nella nave il gioco ti aiuta salvando un po' le varie zone che hai già visitato, no? Le varie, diciamo, i vari misteri che stai cercando, eccetera. No. Però anche se senti il designer, cioè io non so, mi raccontavi che anche tu hai visto qualche intervista. Se tu senti se tu senti parlare i designer di questo gioco e parlano di quali sono i pilastri di conoscenza, quali sono le non mi ricordo di preciso il termine che usano, però essenzialmente quali sono i concetti fondamentali, le verità fondamentali di questo universo che il giocatore ha bisogno di sapere per finire il gioco, no? Mm-hmm. E in realtà, cioè, se vai a stringere, ce ne sono tipo, non mi ricordo se 3 o 4 o 5, non dovrebbe essere 4 se non ricordo male. E se vai a stringere, se vai a formalizzare, è come dire devi finire queste 4 quest, tra virgolette, per arrivare a questa abilità o questa, come dire, cosa sbloccabile, e con queste 4 cose sbloccabili finisci, puoi andare a finire il gioco e vedere il finale. Ma raccontarlo così è talmente una violenza che già mi sento male a dirle queste parole, cioè nel senso fa proprio violenza a quello che è il gioco, che è tutto dentro di te, è tutto stranamente personale, è filosofico, è concettuale in un modo che solamente questo gioco ho visto fare. Mi ha veramente portato le lacrime senza dire nulla questo gioco, cioè senza dire nulla esplicitamente, prima ancora di sapere la lore. Scusa, vai. Secondo me, dicevo, è una di quelle pochissime storie che si sono viste, che sono storie da videogioco. Nel senso che videogiochi ormai possiamo dire che sono pieni di belle storie. Sono pieni di titoli con buoni scrittori dietro che hanno saputo raccontare una storia assolutamente interessante, profonda, piena di significato. Ma allo stesso tempo si può dire che molte di queste storie, almeno secondo mia modesta opinione, non necessitavano del media del videogioco per essere raccontate. Se prendiamo per esempio, che io ci vedrei benissimo, magari fatto in maniera leggermente diversa, magari raccontato tagliando alcune parti, allungando a necessità, la storia di The Last of Us, io avrei potuto benissimo vederla in un film o una serie televisiva come va adesso di moda, no? Questa storia di questa coppia di appunto questo uomo e questa ragazzina che si incontrano e finiscono per fare quello che succede nel gioco. Quindi il gioco ha una bellissima storia, ma non serviva che fosse un gioco per raccontare questa storia. Mentre è una storia che viene aumentata, che viene migliorata dal fatto di essere un gioco. Però come dici tu, sì, non doveva per forza essere un gioco. Ma sì, cioè nel senso viene adattata benissimo al media del videogioco, ma che uno si potrebbe benissimo immaginare, non voglio dire, non è neanche così estremamente distante, le cutscene sono molte, una narrativa lineare appunto che può essere interpretata in questo modo e quindi si può benissimo immaginare come poteva essere una serie con attori veri invece di modelli al computer. Ecco, The Outer Wilds è uno di quei giochi che esiste perché è un gioco e non riuscirei a immaginarlo sinceramente, almeno avere un impatto altrettanto importante e non so come dire, sì, un impatto forte in un altro media. E Outer Wilds è nato come gioco e non poteva esistere che non come gioco, che non come questo tipo di narrazione attraverso l'interazione col giocatore, il voler presentare il mondo in un certo modo, il voler fare in modo che, come dire, la storia risultasse, come dire, lasciasse questo impatto nel giocatore in questo modo. Perché se uno ci pensa, non è una critica, per dire, se uno ci pensa alla storia, se tu dovessi effettivamente raccontare, come diceva Jacopo, la storia a qualcuno, sarebbe una storia anche tutto sommato banale, quasi semplice. Sì, semplice. Cioè, la storia in sé, proprio l'elenco degli eventi, no? Come dire, dati, eventi e date ed eventi raccontate come il log come si dice? Il log di viaggio, la scatola nera del viaggio. Se uno lo raccontasse, se uno la leggesse come fosse una, appunto, questo elenco di fatti che avvengono uno dopo l'altro, direbbe ok, anche appunto, cioè, ok, semplice, banale, così. Ma il fatto di averla raccontata in questa maniera, con questo tipo di interazione con l'utente, porta il suo, come dire, porta all'impatto che ha, l'effetto che lascia su chi sta vivendo quel racconto, a dei livelli estremamente superiori, ma proprio salti di emozioni proprio molto più alte di quello che non sarebbero a vederlo magari raccontata. È quello, cioè, io faccio fatica anche a immaginarla, come dicevo prima, in altri media. Cioè, farei fatica a vedere un film o una serie TV con un impatto emotivo più forte di quello che si può ottenere con questo videogioco. Cioè, non riesco a immaginarmelo, non riesco proprio a immaginare come farla funzionare al di fuori da quello che hanno fatto in questo caso. È difficile, cioè, perché dovresti cambiare tante cose e girarle in maniera intelligente, e cioè il fatto è che è difficile stabilire un legame emotivo con un concetto così, cioè con qualcosa di così concettuale in una serie TV, in un film. Ma qui con il fatto che sei tu a vivere in prima persona, non è una cosa concettuale, sei tu che la stai vivendo. Adesso, visto che ormai abbiamo detto non seguite questa puntata se ci sono spoiler, io farei qualche spoiler. Quindi giusto, giusto. Venire a fanculo, ci sta, ci sta. Deve giocare il gioco. Abbiamo dato il tempo di salvarvi in questo momento, ma adesso no. Allora, quando scopri che esiste questa cosa chiamata questo materiale che è una roccia quantistica, no? Mm-hmm. Io l'ho scoperto, me ne sono accorto lì nella caverna, dove molti, immagino, facciamo questa scoperta. In realtà non è obbligatorio farla lì, anzi, per esempio, Luca l'ha scoperto con la, quella, come si chiama? Con la specie di prova, no? Con i vari portali, quel puzzle bellissimo. Addirittura lui è andato prima lì, lui sì, è folle. Che è quella prova finale. E follia. Tra l'altro quel puzzle bellissimo. Però quando io ho scoperto quella cosa, mi è preso un colpo. Cioè, ero io a dettare il ritmo dell'azione, ero io ad aver appena letto questo messaggio, ero io che sono rimasto spaventato e anche sorpreso da quello che stava succedendo. Perché è come, cioè, il mio cervello faceva fatica a processarlo e il modo in cui l'ho processato è stato al mio ritmo, no? Al mio stesso. Quindi quell'evento nella mia testa è un evento che è diventato parte della mia storia, in un certo senso, di quel gioco, no? Quindi una narrativa che tu potresti mettere semplicemente elencando quello che è successo è già sbagliata, proprio perché l'hai elencata, in certo senso. Perché io ho fatto questo percorso nel gioco, per cui magari prima ho scoperto, che ne so, questa roccia così, poi sono andato a fare la prova, poi sono andato sulla luna grandistica, eccetera. Magari qualcun altro, per errore o per fortuna, come Luca, io penso l'ho scoperta a Brittle Hollow. Cioè, per dire, siamo tre persone, tre modi diversi, esatto. Tre cose diverse, giusto per dire. Su Brittle Hollow dove l'hai scoperto, scusami? C'è quel pilastro nei pressi della torre, del tempio della luna quantica, che ogni tanto appare, scompare, si sposta. Ah, è vero! È vero, non ho dato io per l'ultimo quello, quando stavo girando a casaccio. Quindi sì, cioè, ognuno ha un momento diverso in cui scopre cose, ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha le sue reazioni emotive. Per me, la cosa che è più potente di questo gioco, a parte il gameplay, a parte questa cosa che abbiamo detto, che è potentissima del sistema in generale, è questa idea di tragedia che alla fine viene accettata, no? Perché, altro spoiler, tu ogni 22 minuti hai questa esplosione inevitabile della stella che va supernova, no? Beh, diciamo, abbiamo detto niente spoiler, l'universo sta finendo, cioè l'universo sta... Non è uno spoiler, è vero, cioè, è come diceva, come in Douglas Adams, siamo arrivati alla fine dell'universo, non c'è un ristorante, però... No, qui c'è un ristorante, è un ristorante all'aperto, diciamo, un ristorante barbecue. No, vabbè, quello che voglio dire è, hai questo senso di inevitabilità, di ineluttabilità che pervade tutto un po' il gioco, di nostalgia, di malinconia. La colonna sonora è stupenda perché è semplice, ma è qualcosa che cresce in intensità, si aggiungono sempre più strati, e ti giuro che per tutto il gioco ho provato a trovare il punto del sistema solare in cui potevo allineare tutte quante le persone, perché tu, praticamente, per chi non sa il gioco, per chi non conosce il gioco e per chi non lo vuole giocare mai e sta continuando a guardare, prima di tutto sei una brutta persona che stai continuando ad ascoltare e non vuoi giocarci, però tu hai questo strumento che ti permette di ascoltare a distanza dei suoni, delle frequenze, e una di queste frequenze è la frequenza dove suonano dei viaggiatori come te, degli esploratori, che hanno fatto un campo e sono messi lì a suonare, a rilassarsi. E questi esploratori suonano tutti quanti la stessa musica, che è la musica dell'universo, si può dire. Cioè, è una canzone molto semplice, che è una delle più belle canzoni mai scritte, secondo me, per un videogioco. E ogni viaggiatore suona uno strumento diverso, ma è bello perché se tu allinei due o più viaggiatori con questo strumento, li senti entrambi, o li senti tutti quelli che hai allineato. E mi è dispiaciuto che sono arrivato, cioè io mentre facevo l'ultima cosa che devi fare nel gioco stavo pensando, ah cazzo, però peccato che non ho sentito la musica completa dell'universo. E immagina la mia gioia, la mia sorpresa, io stavo già in lacrime perché avevo capito cosa stava per succedere nel finale del gioco, dove l'universo sta finendo, l'hai accettato tutti quanti, cioè il gioco è come se ti avesse portato alla conclusione che anche i Nomai avevano capito, cioè a questa idea che fosse inevitabile, che volessero in qualche modo provocarlo per avere una seconda opportunità, e tutte queste persone che una ad una cominciano a suonare un strumento alla volta, e alla fine anche il Nomai che si mette lì poverino col pianoforte, non mi ricordo, a cercare di io lì non ce l'ho fatta più, cioè io gli ho detto anche lì, no, nella mia testa, nella mia storia avevo questo senso di non essere riuscito a fare tutto quello che volevo, cioè io avevo questo senso di ok, va bene, mi piace che stia finendo, mi piace che stiamo andando finalmente a vedere di cosa stavo parlando finora, e alla fine la cosa di cui stavo parlando era questo, non era niente di più, cioè io, boh, Ma infatti anche lì, come dire, ripensandoci adesso con il senno di poi, anche ammettere quanto sia stata coraggiosa la loro scelta di raccontare una storia del genere, perché ripensandoci adesso, come dire, l'istinto naturale, no, del giocatore, soprattutto uno che ha già giocato altri giochi, tantissimi come abbiamo fatto noi, è ok, ti buttano in mezzo a questa situazione, a questo problema, cioè l'universo sta per finire, è un problema, e tu come giocatore durante un po' tutto il gioco, almeno di nuovo per me è stato così, hai un po' l'aspettativa che, come dire, il senso del gioco sia ok, io sono qui qua in mezzo a questa brutta situazione e devo trovare una soluzione a questa situazione. Ed è stato estremamente coraggioso e una cosa che effettivamente non si vedeva molto come in altri giochi, ed è per questo che forse mi è rimasta particolarmente impressa, in quanto anomala, in quanto l'abbia vista così poche altre volte, cioè quella che in cui questo caso non era tanto un gioco per cercare di risolvere il problema, ma più una storia che raccontava come, almeno in certi casi, l'unica cosa che si può fare è appunto accettare un po' la situazione, ricordarsi di tutto ciò che c'è di bello intorno a te, di tutto ciò che ti ha accompagnato durante il viaggio, e poi accettare il finale per come verrà. E magari, se si è fortunati, trovare in questo finale, sempre per fare poche, come dire, pochi paralleli con la morte e cose del genere, un nuovo inizio, un nuovo, l'inizio di qualcosa di nuovo, di come dire, un qualcosa di buono, ma non per noi, ma per quelli che verranno dopo di noi. E quanti altri giochi, diciamo, sono riusciti a raccontare una storia del genere attraverso soprattutto il loro gameplay, soprattutto, beh sì, alla fine è quello, cioè quanto sono riusciti a farli addirittura tramite il proprio gameplay, perché non ci riescono alla fin fine tanti giochi a raccontare una storia con il gioco stesso. Ci sono storie e gioco che vengono fusi insieme, ma a volte fanno fatica a interagire, non in questo caso, almeno non mi è sembrato a me. E no, cioè alcuni ne parlano, come dici tu, ultimamente sempre più giochi stanno parlando di temi sempre più profondi. E sicuro, no? Qui non c'era dissonanza l'uso narrativo, vero? Precisamente no. C'era molto skeuomorfismo. Beh. No, vabbè, sentivo parlare, vabbè, una tizia che seguo di un gruppo di persone che parlano di videogiochi, e lei diceva: un gioco del genere, parlando di maquette, se non sapete cos'è maquette, è un gioco indipendente uscito da poco, dove tu praticamente puoi manipolare... Scritto come, scusami? Maquette. Con la Q, immaginavo. Mi sembra. E l'idea è che tu puoi essenzialmente manipolare un oggetto e poi entrare, diciamo, in una versione che è più piccola del livello dove... Cioè, è come dire, tu hai... Immaginati una casa delle bambole, prendi una chiave che tu hai, la metti dentro e poi entri nella casa delle bambole e la chiave è enorme. Non so se mi sono spiegato. Quindi tu diventi molto piccolo, ok? E il gioco è fatto tutto così, tipo a frattali, cioè tu hai livelli più grandi, livelli più piccoli, livelli più piccoli, livelli più piccoli, cioè puoi andare sempre più in profondità o adesso, non so come dire, non l'ho spiegato, però cercatelo, capite che cos'è. E il gioco in realtà, questo è gameplay, ma in realtà parla di una, come si dice, quando ti, cioè di due persone che si sono lasciate, che non stanno più insieme, una rottura. Ok. E questa persona diceva, un gioco del genere, la narrativa, cioè il modo in cui è presentata, così, è un gioco di 10 anni fa. E io più ci penso, più ho ragione, perché queste sono stratagemmi, cioè sono storie e sono modo di è un modo di raccontare quelle storie che è vecchio ormai. Cioè, i videogiochi hanno avuto un'evoluzione rapidissima, secondo me, perché sono passati da avere semplicemente il coraggio di parlare di queste cose al coraggio di parlarne bene e di andare più in profondità, secondo me. Quindi, partendo da un gioco come Braid, che già anche per gli standard di oggi è profondo, è anche un po', come dire, metaforico, no? Cioè non parla direttamente dei vari temi che sta presentando e cerca di integrarli nel gameplay. Anche quello sembra un po' assurdo, sembra un po', ok, possiamo fare di meglio, no? Questo maghetto appunto sembra scollegato, sembra un po' una salsa già vista di qualcosa, di una relazione tra queste due persone che si spezza, eccetera. Non è, boh, non lo so, cioè è un po' come riguardare Amélie oggi, il film Amélie, no? O guardare, cioè ripensa a un film che quando l'hai visto ti sembrava, ah cazzo quanto è profondo, invece ora esistono 50 film che ne parlano meglio, che vanno più in profondità. Io penso a Matrix o Futurama rispetto a Rick e Morty. Ora dice, beh, Rick e Morty non è proprio conto di Futurama sempre, però alcune puntate di Rick e Morty mi sembrano puntate di Futurama finite in 5 minuti e poi 15 minuti di roba che va oltre quella puntata, no? Che va più in profondità, che va più, non necessariamente più in profondità come serietà, dico, va a esplorare le conseguenze di quella, di quel tema o di quella, non lo so, di quelle scelte, non so come dire. Questo per dire, cioè, Outer Wilds mi sembra un gioco che affronta questo tema non solamente in maniera profonda, ma anche in maniera personale, e per questo mi sembra così potente. Cioè, come hai detto tu, non c'è dissonanza neuronarrativa, ma a parte quello, non c'è neanche una morale esplicita. Puoi applicarlo alle paranoie, alle ansie, alla paura che hai della tua morte, puoi applicarlo alla paura che hai della morte di un tuo caro, puoi applicarlo alla paura della morte cosmica, puoi applicarlo a qualsiasi cosa. Cioè, puoi, cioè, per me, personalmente, per esempio, il finale, come dicevo prima, è sul lasciarsi andare, sul lasciare andare i rimpianti che hai, sul cercare di concentrarsi su cosa succede dopo, sulla rinascita, piuttosto che sul cosa non hai potuto fare, sul piangere l'universo che non c'è più. E per l'universo intendo il passato. Ma magari per te no. Cioè io non so, cioè tu cosa hai avuto come senso, come finale emotivo, come chiusura? Anche lì, come dire, sul momento ti rendi conto di quante siano abbastanza preziose tutto quello che hai provato durante la storia, ma poi fai fatica un po' a metterla a parole, vediamo se ci riesco. È stato, perché quello è il punto, è quello, è difficile secondo me anche in questo caso parlare del finale come effettivamente singolo momento di epifania o cose del genere, perché ricordando quello che ho fatto io, vuol dire, non è stata all'ultima interazione che mi sono un po' reso conto del fatto che, cioè, che sarebbe finita così, inteso, avevo intuito che anche fossimo riusciti un po' a raggiungere il centro. No, del no, spoiler! Nel senso, fanculo gli spoiler, nel senso, a raggiungere il centro dell'universo, erano già da un paio di ripetizioni che avevo un po' intuito, una cosa del tipo, ok, va bene, forse riusciremo anche a raggiungere il centro dell'universo, però non penso, cioè non so quanto a quel punto si sarebbe potuto fare. Quindi la consapevolezza di come sarebbe stato il finale c'era già da un po'. Vabbè, al di là di quello, sì, cioè, che cosa, ok, sto cercando di, e quindi quello è già stato un primo impatto, e poi uno di, e a quel punto effettivamente uno inizia a chiedersi ovviamente, ma allora perché continuare un po' anche a questo punto, no? Qual è effettivamente, qual è la morale, qual è la cosa? E come dicevo prima, quello che avevo trovato io era appunto a volte l'essere incapace di poter cambiare le cose, anche avendo tutte le possibilità, come dire, tutte le opportunità che si vogliono per provarci, no? Perché alla fine di 22 minuti uno può continuare a resettarli per sempre. E invece a volte magari l'accettare le cose come stanno, il guardarsi attorno e vedere quello che si è avuto in questo viaggio, quello che si è avuto, quello che non solo tu ma anche gli altri possono aver avuto in questo viaggio, ripensarci, magari vedere che non è stato non è andato tutto così, non ci sono state solo cose brutte, no? Non ci sono state anche cose belle dietro dopo tutto questo. E per me il senso è stato un po' quello, probabilmente, cioè il vedere questa grande lezione di empatia, di apprezzamento di quello che si è intorno, eccetera. Quindi quello è stato il senso che ho trovato io. Poi, come diceva Jacopo, effettivamente ci sono diverse chiavi di lettura alla fin fine, per cui ci possono essere diverse chiavi di lettura, e magari anche per questo che Outer Wilds è speciale, nel senso che riesce un po' a parlare a un pubblico più vasto con lanciando questo messaggio più neutrale, nel senso di non così definito e chiuso del tipo, come può essere, i nazisti sono cattivi o fanculo il capitalismo, cose del genere, messaggi così presi a caso, che non si sono visti giusto un paio di volte in alcune opere recenti. Quindi sì, questo era il mio. Non so se ho risposto esattamente alla domanda di Jacopo. Sì, dai, più o meno. E proprio parlando di questo, secondo me, almeno una cosa che a me me l'ha fatto apprezzare ancora di più, però, di nuovo lì, secondo la mia chiave di lettura, e cioè quanto i developer sono stati bravi a giocare con le emozioni, secondo me. Nel senso di magari uno con l'idea di questo finale si può immaginare una storia che punta, non so, su un solo tipo di emozione, che può essere, o perlomeno magari anche lì siamo, perché siamo abituati male noi con altri tipi di storie, cioè che spesso puntano sempre su una sola emozione e finisce che per poter fare la storia o piena di speranza o quella che ti dice no, il mondo è tutto orribile, tutto non ci sono, non c'è ragione di gioia qui che sia. Invece qua, secondo me i developer sono stati bravi a mantenere un po' di ambiguità anche in questo caso, nel senso di sono vari personaggi nella storia che hanno visioni differenti, che mostrano aspetti differenti. Ci sono quelli più letteralmente rilassati, ci sono quelli un po' più che hanno vissuto tutta la cosa, come dire, che uno li guarda un po' e prova un po' di pena per loro, e questa è un'altra cosa che ho apprezzato. Ma anche e soprattutto il fatto di come per tutto il gioco un'altra emozione, secondo me, su cui puntavano davvero tanto i developer era quella della paura, un po', perché è anche quello, no, alla fine il punto, cioè uno magari non sempre riferita a questa cosa della fine dell'universo, ma mettendo anche questi momenti un po' di terrore, di horror, mi vengono in mente i pesci assolutamente, ma anche le sabbie di dell'Ember Twin, o comunque tenendo sempre il giocatore un po' sulle spine, secondo me hanno fatto una bellissima rappresentazione, perché se uno ci pensa, in una situazione del genere, cioè la prima emozione che uno prova appunto è la paura, no? Di quello che potrà succedere, di quello che potrà accadere, che appunto, come dicevo, è difficile passare immediatamente. Non so, quello che sto cercando di dire è che se uno si trovasse veramente in una situazione del genere, probabilmente lo proverebbe. Ovviamente uno che è consapevole di stare giocando a un videogioco e che non sta veramente esplodendo l'universo in questo momento, magari è più difficile far provare, come dire, farlo, fargli provare questo, questa sequenza, no? Di emozioni. E quindi secondo me sono stati molto bravi a mantenere questo aspetto di, non orrore, terrore, più di paura appunto nel gioco, perché, come dire, ha simulato questo aspetto facendoti avere paura per cose diverse della fine dell'universo, ma che uno un po' poi, almeno è stato per me, ha proiettato un po' con tutto il mix anche delle altre emozioni. Quindi questo senso di uneasy, non mi sta venendo in italiano, di tensione, di stare sulle spine per tutto quello che potrebbe succedere, poi è servito anche a raccontare la storia più in grande. Questa è una cosa che ho apprezzato molto e che secondo me, almeno, ci tenevo a farlo notare, almeno questa mia chiave di lettura, poi magari, come dico sempre, sto sparando stronzate, però era questo, per dire, no, l'essere riusciti a far passare la paura anche per cose diverse, ma poi utilizzarla per raccontare la storia finale. Io l'ho sentita un po' così. Anche perché in questo momento mi sta tornando tanto, scusa, poi ti lascio, lasciate la parola, tantissimo la scena, diciamo soprattutto il finale, no? Tutti i momenti per radunare i vari musicisti, i vari partecipanti alla canzone, alla fine, in cui anche lì, secondo me, lì ci sono stati benissimo quei momenti di terrore, ti ricordi? Mi sembra fosse quello il flautista di cui non mi sta venendo il nome in questo momento, ma o forse era un altro, non ricordo benissimo, che c'era quel momento in cui appariva effettivamente il pesce e tu dovevi spegnere un attimo la luce per farlo andare via, che quello lì secondo me è stato geniale assolutamente. Oppure anche gli scheletri dei nomai per quando richiamavi Solanum, se non ricordo male il nome. E quelli lì erano quei momenti terrificanti, ma che servivano, perché in un momento del genere tu devi provare la paura, e se non te la fanno provare in quel modo, di sicuro non ti possono minacciare di far esplodere l'universo se giochi in questo momento. Quindi secondo me è un gioco che secondo me ti costringe un po' a stare fermo in alcuni momenti, nel senso che per forza di cose c'è una meccanica in cui, diciamo, tu non puoi muoversi troppo velocemente, non puoi usare troppo i razzi della nave, perché altrimenti si sentono questi pesci enormi, questi si chiamano, in teoria mi pare che si chiamano rane pescatrici, cioè sono questi pesci che hanno una forma molto mostruosa. Esatto. E c'è la variante quelli di Nemo, praticamente. Esatto, c'è la variante, quella lì del, diciamo, sotto nella parte profonda del mare, in cui usano delle lucine per attirare i pesci, insomma. E sono mostruosi, ma la versione, diciamo, enorme non è mostruosa solamente per l'aspetto, è mostruosa per il contesto, secondo me. È in questa nebbia, non si vede bene, spesso fanno un rumore, diciamo, mostruoso, ti arrivano da dietro, ti mangiano per intero, ti uccidono in un momento in cui hai fatto tanti progressi e stai cominciando ad arrivare al momento clou dell'esplorazione del pianeta in cui si trovano, e ti costringono specialmente a prendere le cose con calma e a sentire la paura, a sentire l'angoscia, a viverci e a fermarti a volte anche a capire cosa stai guardando. E questo rende peggiori alcuni momenti, perché nel momento in cui tu arrivi in una zona in cui tanti nomai si erano spinti in esplorazione da una scialuppa, e li vedi tutti morti intorno a questo seme che li aveva portati sulla strada sbagliata, diciamo, ti fermi un attimo a pensare agli ultimi momenti di queste persone, alle circostanze della loro morte, leggi il diario di una delle persone che sta lì, e cioè, io mi sono sentito veramente una merda lì in quella situazione. Non solamente quello, ma poi anche quando finalmente riesci a risolvere l'ultimo ostacolo che c'è fra te e l'obiettivo, tra virgolette, no, di quel pianeta, che era la nave, quella al vascello, quello principale, c'è questo momento dove io ho letteralmente urlato. Cioè, ho urlato per l'ansia, per l'angoscia, per la paura, per il nervosismo, ma anche per aver capito: oh mio Dio, sta funzionando. Quando la tua nave è alla deriva, e passa attraverso, cioè passa in mezzo a dei pesci, cioè delle rane pescatrici che non si accorgono di nulla e ne avevi tipo 6-7. Io ho urlato a voce altissima, infatti qualcuno si era spaventato a bordo dove stavo. E cioè sono questi momenti, secondo me, che come dici tu, cioè usano la paura anche un po' per esorcizzarla, ma per arricchirti la sensazione di della fatica, tra virgolette, che hai fatto, no? Fatica non in senso fisico, uh-huh. fatica mentale. È un po' sempre quella regola degli opposti, no? Che uno non... Cioè, ho detto che uno non si rende conto delle cose belle senza le cose brutte, no? Stesso principio, senza un po' di paura, dopo i momenti di... Non è proprio epifania la parola che cercavo, però ai momenti di... con quella sensazione di esserci riusciti, di aver superato il tuo ostacolo, di esultanza, di euforia, si sentono più forte dopo averli messi a confronto con tutto quello che hai provato prima. Tutto lì. È un gioco che mi sembra che abbia capito una cosa che forse Death Stranding non ha capito appieno, ovvero che c'è il momento Kojima anche in questo. Scusa, diciamo, non voglio fare il momento Kojima. No, realtà, ma era una battuta, sì. La mia era una battuta. Allora, facciamo un momento Kojima, aspetta, fammi ritrovare la sigla, visto che ormai abbiamo deciso che la mettiamo in live. Ah sì? Ok. No, lo so, cioè, mi pare di aver capito che la mettiamo in live adesso. Vediamo se riesco a farla partire. È un casino con questo telefono. Get you waiting, huh? Ok, si è sentita? Io l'ho sentita, aspetta. Perfetto. Allora, l'idea è che Death Stranding molti l'hanno criticato perché è un gioco noioso, un gioco che essenzialmente devi andare da A a B, non c'è niente, non succede nulla, è solamente una rottura di scatole e essenzialmente ti dà fastidio, un gioco che dà fastidio a molte persone. Io, cioè, da un lato ho fatto una controcritica, ho detto, cioè, siete voi che vi aspettate che ogni gioco debba essere sempre divertente, sempre godibile, no? Invece no, era proprio quello il punto, l'idea di farti sentire questa sensazione di angoscia, di noia, di fastidio, no? Che è quello che senti quando fai un lavoro del genere, quando fai una cosa del genere, e aumenta la sensazione positiva che hai quando vedi che un giocatore ti ha costruito una zipline o un pezzo di asfalto. Cioè, ti aumenta il contatto che hai con quella pool di giocatori, perché poi in realtà il gioco ti fa vedere sempre più o meno le stesse persone, quindi ti attacchi emotivamente, ti crei una relazione emotiva con queste persone che in realtà non hai mai visto. Però effettivamente Outer Wilds fa una cosa, secondo me, che Death Stranding non riesce a fare, cioè anche in questi momenti brutti, cioè anche in questi momenti frustranti o spaventosi, o cioè comunque è un gioco più tattile, non so come spiegarlo bene, è un gioco che ti dà più l'impressione di avere il controllo, di avere la possibilità di avere tutto quello di cui hai bisogno per fare meglio, in un certo senso. Che nonostante abbia i suoi problemi, mi sembra paradossalmente più polished, che è un termine che si usa per dire quando un gioco è pulito, no? È scintillante, è brillante, Sì, perché nel qualcuno... senso, cioè, si usa per dire qualsiasi cosa, è rifinita, è Esatto. Cioè, splendente, è splendente, cioè qualcuno ci ha passato una mano di lucidatura stata con la pensa. Levigata, ecco la parola che cercavo. Esatto. Quindi, cioè, mi sembra un gioco che nonostante Kojima abbia un po' la nomea di fare giochi molto polished, tra virgolette, cioè che piuttosto che far uscire contenuto non finito lo toglie, cosa che succede spesso, paradossalmente Death Stranding non sembra un gioco così così rifinito, grazie, rispetto a The Wilds. Cioè, anche se The Wilds è più piccolo, The Wilds ha comunque i suoi problemi di fisica, mi sembra che tutto funzioni, mi sembra che tutto abbia un posto, che tutto sia incastrato bene. Invece in Death Stranding ci sono momenti in cui ho pensato, secondo me qui qualcosa non è rifinito, manca qualche rifinitura sul modello fisico dei veicoli, manca qualcosa a livello di, non lo so, cioè mancava qualcosina per renderlo a un livello di rifinitura completo, capito? Ma infatti non lo stiamo esplicitando, però c'è, alla fine se ci pensi bene, Outer Wilds Death Stranding so più o meno la stessa storia, eh? Cioè se uno ci fa un attimo caso, come dire, l'universo barra la specie umana sta finendo, abbiamo sto esploratore che si muove tra vari posti, che come dire, sta cercando un po' la soluzione, cioè nel senso, ovviamente non sono lo stesso gioco, usano meccaniche diverse, grazie al cazzo, però se uno ci pensa, forse di base la storia era un po' quella. E notiamo qui come effettivamente Kojima, oltre a cambiare, diciamo, la morale finale della storia, in cui effettivamente un po' forse ci perde anche per quello, nel senso che io il finale di Death Stranding un pochino macchinoso, forse un po' sempre un po' Deus Ex Machina, e l'avevo sentito, poi Kojima ci va bene, nel senso è figo, quindi va bene. Però se uno ci fa un po' attenzione, forse anche quello lì, cioè chi cazzo è sto Sam per fermare la fine dell'universo, no? Il lavoro un pochino si fa sentire di più, soprattutto se lo metti a confronto col finale di Outer Wilds. E poi l'altro punto, cioè che magari la storia era quello, magari pensate se Death Stranding fosse partito più o meno con la stessa idea di base di Outer Wild, ma la sua dimensionalità, la sua grandezza, il suo essere un gioco di Kojima che appunto magari non si poteva permettere di essere più piccolo e più rifinito stavolta, perché, come dire, era il suo grande debutto da fuori dalla Konami, eccetera, eccetera. Forse ci stavano leggermente puntando un pochino di persone su quel Death Stranding. Come dire, l'averlo fatto così grande ha diluito un po' il senso, no? Il gusto finale della storia è stato diluito in un racconto un po' troppo lungo, non in quei 22 minuti che gli sviluppatori di Outer Wilds ci hanno lasciato, ma in che quant'è 40 ore di gioco, The Stranding, una cosa del genere. Non so, almeno io, qui in questo momento, mettendoli un po' a confronto come è capitato, ho pensato a questo. Poi ovviamente aspetteremo non aspetteremo Abandoned, era una battuta. No, niente, questo... E in realtà... Non so cos'altro, non ho molto altro molto da dire, è un gioco bellissimo, giocatelo per favore. Perché, ma in realtà, cioè, qui non noi stavamo cercando di fare, almeno io non stavo cercando di fare no, forse un po' un'analisi, sì, però non stavo cercando di fare né una recensione né un'estrapolazione, magari come ci abbiamo provato con più o meno successo altre volte in altre puntate di regole non scritte generali di un videogioco. In realtà io questa conversazione era partita come un apprezzamento su Outer Wilds e la mia intenzione era finirla come un apprezzamento di Outer Wilds senza aggiungere molto altro, che magari anche qua sto un po' esagerando, però mi piace spararle grosse. Secondo me Outer Wilds, sotto un certo punto di vista, sotto, diciamo, la parte un po' narrativa, sotto l'aspetto narrativo dei videogiochi, è stato un po' il Breath of the Wild, cioè è stata la controparte di Breath of the Wild sul punto di vista del gameplay. Secondo me, quando è ormai 4-5 anni fa, Breath of the Wild ha un po' rivoluzionato il modo in cui uno vedeva il gameplay di certi, diciamo, generi del videogioco, soprattutto quello esplorativo e di avventura vera e propria, come si suol dire, ma soprattutto quello esplorativo. E Outer Wilds, secondo me, forse non ancora adesso, perché come diciamo prima, essendo un titolo piccolo che la gente non se ne è ancora accorta, però ha fatto la stessa cosa considerando i giochi di narrativa, cioè quelli che vogliono raccontare una storia. Come fai adesso a prendere un gioco che racconta una storia e non metterlo un po' a confronto al modo in cui l'ha raccontata Outer Wilds, no? Cioè, io faccio fatica in questo momento, un po' come adesso se mi passate un gioco che si basa sull'esplorazione, non sul combattimento, principalmente sull'esplorazione, perché quelle, sull'interazione con l'open world del mondo di gioco, come faccio io a non metterlo a confronto con Breath of the Wild? Cioè, è quello, sono diventati, hanno un po' alzato l'asticella, hanno un po', come dire, ridimensionato tutto quanto, perché sì. Perché sono stati troppo bravi, non c'è altro da dire a questo punto. Bene, sì, sono d'accordo. Cioè, questi sono di quei giochi che appunto, come Undertale per ragioni simili, come Psychonauts, come... Cioè, tanti giochi che hanno, secondo me, cambiato quello che si può fare con la narrativa, questo è quello, sicuramente. Come secondo me lo è The Last of Us parte 2, forse in minor parte, perché vabbè, è molto più classico come gioco. E quello appena poi scarti di nuovo la storia, appena prendo la PS5 poi ti dico, tranquillo. Come appunto Breath of the Wild ha cambiato molto di questi giochi, cioè, sistemosi. Sì, cioè, ha cambiato un po', cambierà. Se non ha già cambiato un anche po'. Lì, piccola mente, voglio dire, la Nintendo lo sappiamo che non lo farà mai, quindi non ci provo neanche, però Sony, voglio dire, magari dopo qualche anno esclusive, le esclusive console, ma lasciale un po' anche per il computer, cioè dico... No, ma lo sta facendo. Sì, no, infatti in questo caso devo dirlo alla Naughty Dog, lui, cioè, voglio dire... No? Anche la Naughty Dog lo sta facendo, solo per la calma. Uncharted 4, sì. Uncharted 4 c'è per PC, però tipo il resto della saga di Uncharted non c'è per PC, sbaglio. In realtà neanche Uncharted 4, c'è solamente un rumor, però penso prima o poi metteranno tutto, cioè con calma. Penso che stiano andando. Voglio dire, altrimenti io la 3080, appena la trovo, cosa la prendo? No. Vabbè. E quindi direi ok, io spero di riuscire a beccare Luca o da solo con Marco appena riesce anche lui, perché anche lui l'ha giocato ed è molto più, come dire, ma Luca l'ha finito? Sì, l'ha finito, l'ha giocato. Ah, okay. E è meno, per un attimo temevo fosse una persona più con una vita più di me. No, non ci vuole tanto, dai. Comunque so che l'ho apprezzato, lui ha meno contesto di quel gioco, forse di noi, aveva meno contesto. Eh beh, come dicevo. Quindi sono più curioso di sentire cosa ne pensa. Magari se riusciamo a beccarlo, lo mettiamo dopo questa parte. Tanto penso che ormai l'episodio sarà tutto su The Outer Wilds, visto che noi ci avevamo detti di non fare un episodio su questo, cioè su un gioco specifico, ma Outer Wilds, secondo me, si merita l'eccezione. Visto che Zelda era uscito fin troppo prima di quando avessimo iniziato il nostro podcast, non è che potevamo fare molto altro. Esatto. Va bene, tutto qua. Effettivamente ci starebbe da pensare, anche se ormai, come dicevo, un gioco di 5 anni fa, un episodio su Breath of the Wild. Dai, quando esce il 2, ne faremo uno. Quando esce il 2, dai, faremo una roba più generica. Hanno detto 2022, quindi nel 2024 esatto. Probabilmente o uscirà o comunque faremo il podcast, chi lo sa, a questo punto. Bene, se riuscirai a scommettere Luca, qui taglierò il podcast, altrimenti ciao. Beh, quindi un saluto a tutti, grazie per averci ascoltato anche in questo chissà quale numero di episodio, visto che è stato così improvvisato, e continuate a giocare. Vediamo. Siamo già non voglio registrando. Iniziare, Craig ha deciso di iniziare a registrare. Ok. Comunque sì, io sarei molto spaventato da avere figli. Scusate per questo inizio molto personale. E quindi mi permetto di fare di dare il benvenuto ai nostri ascoltatori, visto che, anzi, prima di tutto, stavo per chiederti, poi e Craig è partito, non si sente la ventola, partito... spero. Sì, scusa, è partito da solo, Craig, mi è sciurato il dito sul... Ok, si sente la ventola o mi sentite bene in questo caso? Perché sennò posso spegnere. No, io ti sento bene. Ok, io ti sento vediamo bene. Finché dura. Allora, dicevo, benvenuti a questa nuova puntata del nostro focolare elettrico nello spazio a questo punto, perché stiamo diventando un podcast monotematico. Infatti anche nella puntata di oggi, come dire, si parlerà un altro po' sempre di Outer Wilds. È la stessa puntata, in realtà. Ah, è la stessa puntata che puntiamo insieme. Ok, allora non devo... fine della scorsa puntata ho detto speriamo che Luca Oddis viene a parlare pure un po' lui. Ok, allora non mi ricordo se avevo già fatto l'introduzione della scorsa puntata, però nel caso serve, benvenuti all'episodio... Uguale all'episodio prima. Ok, no, sto per dire, qui in post-produzione Jacopo monterà me che dico il numero una volta che capiremo quale episodio. Il numero è casuale, sì, non sappiamo quale sarà, okay. Forse il 36. Ho lasciato lo spazio vuoto apposta, poi tu mi dici qual è... Il 39 forse, dai, vedremo. Poi tu mi dici quale numero ti serve, io ti mando un vocale di me che dico il numero e lo monto in posto giusto. E quindi abbiamo voluto continuare a parlare di questo videogioco che ci ha così... appassionato nell'ultimo anno e mezzo, un po' di più anche, perché abbiamo un ospite quest'oggi qui con noi, un altro esploratore dello spazio, per così dire, che non penso sia mai stato in una precedente puntata di questo podcast, o sbaglio? Pare sì. Ah sì? Quella di Halo? Ok, allora. Siamo sinceri, è stata su quello di Halo, però da quel poco che ricordo non aveva partecipato tantissimo, mi sembrava, o sbaglio io. A me è su quello di Halo, allora. Okay. Quindi abbiamo con noi Luca Oddis, uno dei padri fondatori dell'universo, del nostro piccolo universo, no? A cui è stata dedicata anche il nome di una casa, sono state... fondate scuole, ospedali a suo nome, eccetera, eccetera. Esatto. Ciao a tutti. Luca, vuoi presentarti al nostro pubblico nel caso non si ricordassero dei tuoi precedenti episodi? Beh, per chi mi conosce, sono un amico di Jacopo e Marco che si fa suggerire giochi e li gioca e poi... Ma come, mi aspettavo qualcosa di più, del tipo... miliardario, filosofo, filantropo sì. E fondatore di... sì. Esatto. Stavo cercando di fare Robert Downey Jr. in Iron Man, ma non mi è venuta troppo bene. No, diciamo che il modo migliore per descrivermi è che sono l'unico che non ha nessun motivo per parlare in nessuno dei podcast noti al pubblico, ma lo fa comunque, cioè... Beh, esatto, come tutti noi, quindi, cioè, come dire, vabbè, hai descritto tutti i partecipanti. Voi avete una certa esperienza. No, allora questo che non capisci, io e Marco siamo già in crisi di mezza età e quindi parliamo di cose che non capiamo. Infatti Luca, c'è cioè, sentiamo... ma cosa che pretese pensi di avere? Marco effettivamente ultimamente lo sento molto da vecchietto al cantiere. Esatto, ah, guarda, esatto. Da... mi fa piacere. Non si fa proprio... così, Starfield, cambiate la... non so. È proprio l'immagine che sto cercando di dare in questo periodo. E quindi vabbè, Luca ha subito, diciamo, appena avuto l'occasione, ha millantato, dice che noi gli consigliamo i giochi e lui li gioca, ma in realtà... è così. Cioè, è così per questo gioco, nel senso, e forse altri due giochi, però non sempre, diciamo. Almeno la curiosità, diciamo, dai. Questo, beh, questo dai, facciamo, messo... giusto per avere un po' di curriculum vitae. Prima che ci fossimo noi a consigliarti i giochi, tu a cosa giocavi? Ah, ok, interessante. Allora, il mio passato, diciamo, io sono nato, come dicono quelli che sono, nasco attore di teatro, io dico, nasco come giocatore di strategia. Mi piacevano tantissimo quelli che soldatini, Imperium, Rome Total War, tutte queste cose. Poi dopo ho iniziato a giocare ad altro in generale, alle superiori, un po' conoscendo Jacopo, Edoardo, così abbiamo iniziato un po' a condividere questa cosa e poi ho giocato un po' a tutto. Però diciamo, da piccolo, fino al quarto superiore mi rinchiudevo il pomeriggio e mettevo i soldatini nei castelli e combattevo. Questo era quello il mio passato, diciamo. Yugodis nasce dai 13 anni, giocatore seriale. Padre di se stesso. Esatto. Concepito per mitosi. Questo, diciamo, piano piano mi sono un po' allargato, diciamo, prima con Jacopo, che come chiunque segua il podcast saprà, diciamo, ha una conoscenza, diciamo, trasversale ovunque di qualsiasi videogioco, e all'università, diciamo, la sera dopo cena giocavamo assieme magari qualcosa di multiplayer, più come intrattenimento che come, diciamo, interesse artistico, ecco. Chi si sfondava di LOL? Puoi dirlo, cioè. LOL, adesso... Peccato capitano. Che altro abbiamo fatto? No, LOL per tanto tempo, devo dire. Beh, voglio dire, tu mi sembra che vorrei citare la tua nota carriera, il tuo noto TFT, ruolo da maestro in TFT, se non sbaglio. Reminiscenza un po' degli ex strategici, però, diciamo, non proprio... Effetti, sì, è vero, training. Curiosità mia, mai approcciato al mondo di StarCraft? StarCraft ci ho giocato letteralmente un'ora e mezza, forse. Mi ci volevo rimettere, però poi avevo paura di cadere nel tunnel del 20 ore al giorno. Ci può stare. Mm-hmm. E quindi, Luca, tu... Oh no, Jacopo, dovevi chiedere qualcos'altro? No, vai. Stavo per dire, giusto, Luca, tu sei qui quest'oggi con noi perché abbiamo una domanda molto importante da farti. Ditemi. Che ne pensi di Outer Wild, Luca? Vabbè, così aperta? Cioè, così... Vediamo che cosa vogliamo più nel dettaglio. È uno dei giochi più belli a cui abbia giocato. Come ha detto Jacopo, mi devi consigliare uno dei giochi più belli che esistano. E lui me l'ha consigliato ed era vero. Comunque, secondo me ho fatto un errore, nel senso, dovevo consigliarti un gioco un po' più brutto, sì. Così poi mi dicevi, ah cavolo, come è preso questo gioco, me ne dai uno ancora più bello? E ti dicevo, Outer Wilds. Invece, esatto, adesso... Mi dai uno più bello? No, cioè, è finito. Cioè, hai cominciato e hai finito, nel senso... Ah, ho capito. Cioè, come io che il primo gioco che ho giocato in VR è stato la Fly Falix, e infatti poi non gioco più, perché ho detto, ok, ho finito, non c'è più nient'altro, apposta. Chiudiamo baracca. È un problema vero, se ci pensi. Cioè, no, ma veramente, cioè, adesso magari entriamo più nel discorso del Wilds più in dettaglio, però cioè, ho fatto una lista di giochi, cioè, ho cominciato un po' a pensare agli ultimi giochi, cioè, degli ultimi 20 anni che mi sono piaciuti di più, e cioè, Outer Wilds penso sia uno dei due o tre più belli di sempre, veramente, cioè, adesso stai, cioè, ha iniziato Braid, ma Braid è stato l'inizio quasi di quel, cioè, dei, dei giochi indie, tra virgolette, di nuova, della nuova era dei, dei giochi indie bellissimi. Braid è stato, secondo me, forse uno dei primi a dimostrare che magari il gioco in quanto medium può essere sfruttato meglio anche sotto dal punto di vista narrativo e trattare discorsi anche un po' più impegnati e non solo tu sei il prescelto, devi salvare il mondo, e che si può sfruttare l'idea di gioco stesso per narrare una storia, proprio utilizzare, unire gameplay e narrativa, diciamo, come in un'assonanza ludonarrativo, sarei... Attenzione, già partiamo con gli scamorfismi. No, sì, vabbè, è un bel esempio di unire un messaggio, una storia, qualcosa di un po' più profondo di quello che c'era prima. Ma non siamo qui a parlare di Braid, esatto. Io e Jacopo abbiamo già parlato anche troppo dell'argomento, quindi voglio sentire Luca, se c'ha qualcosa da raccontarci, perché alla fine se è venuto qui vuol dire che forse voleva raccontare comunque la sua esperienza a qualcuno, come è intrinseco nella natura umana, e magari, non so, aneddoti, qualcosa che ti ha colpito particolarmente anche dal punto di vista più... Beh, mi viene da pensare, visto il tuo background in fisica, matematica slash fisica, direi che potrebbero essere stati trattati anche argomenti di cui magari tu conosci leggermente più di noi, probabilmente. Sulla carta, diciamo. Però sì, no, mi piace questo come inizio, devo dire, perché effettivamente è stato fatto un lavoro, e questo poi l'ho chiesto a Jacopo, me l'ha confermato, dal punto di vista di motore, grafico, fisico, tutto quanto, non banale sicuramente, ecco. Poi magari Jacopo lo dirà più nel dettaglio. La parte, diciamo, è interessante perché ci sono molti concetti di meccanica quantistica, come sempre la meccanica quantistica che viene, diciamo, che viene estrapolata e presa per farci della narrativa, capito? Quando devi usarla per metterla nella fantascienza e farci delle robe così. Però comunque, a mio avviso, molto gradevole da come è stata utilizzata. Non verosimile la roba quantistica che è stata utilizzata, però molto bella. Adesso la fisica quantistica è la nuova informatica, no? Prima, esatto, c'erano gli hacker, adesso ci sono i buchi neri. A tal riguardo ti volevo chiedere magari di parlare di questo, cioè gradevole, cioè quindi intendi che dal punto di vista fisico non è una cosa fattibile, cioè nel gioco non ci sono meccaniche realistiche, ma dal punto di vista della filosofia, cioè di quello che fa vedere come, cioè avendo come ispirazione i fenomeni reali, ti è sembrata rispettosa come cosa? Non capisco. Come faccio a dirlo? Diciamo il dei forse... concetti della meccanica quantistica sono stati, cioè il fatto che tu possa guardare qualcosa, cosa posso dire del gioco, Jacopo? Aspetta, fammi... No, l'abbiamo definita come puntata full spoiler, quindi... Puoi dire tutto. Ah, ok, no, stavo cercando di... Diciamo che questa parte l'ho messa dopo, perché noi abbiamo parlato 20 minuti già io e Marco. Ok, ne abbiamo spoilerato tutto, questo, quindi questa viene dopo, quindi già abbiamo spoilerato tutto. Ah, ok, perfetto. No, diciamo, il fatto di... guardare qualcosa e lui resta fermo e poi girarti e sparisce, diciamo, per un pianeta chiaramente non è o per qualcosa di grande come una luna, un pianeta non è qualcosa di realizzabile, però è gradevole, cioè nel senso è legato al rapporto osservatore cosa osservata che c'è in meccanica quantistica, ma è bello poi cosa se ne fa dal punto di vista della meccanica di gioco, capito? Per quello mi diventa gradevole, perché non è buttato lì solo come, appunto, l'avete detto più volte, come quando devi mettere quantistico alla fine di ogni nome per far sembrare, certo, una cosa di fantascienza, ma è bella la meccanica che c'è dietro poi di gioco. Lì c'è rimasto forse un minimo coerente, diciamo, con l'idea che sia ora della fisica quantistica, non è andato a estrapolarci troppo cose troppo inventate sopra, mettiamola così. Esatto. come a volte tipo l'entanglement, la gente si fa i tatuaggi delle equazioni di Dirac scritti male, dice che è l'amore, capito? Non così, diciamo. Esatto. Correlazione quantistica, entanglement. Esatto. Marco, una cosa, scusa, quando non parli per un po' di tempo... Ti sente, vado a... Che poi Crisp si vado a... Arrivo subito. Dovrei farlo anche io. No, cioè, quando... Solo quando non parli per un po' si comincia a impazzire. E quindi diciamo, ok, quindi tu dici, non è solamente il fatto che si siano ispirati a fenomeni, diciamo, quantistici reali, e che l'abbiano fatto magari in maniera rispettosa, nel senso che non insulta la tua intelligenza, non insulta la tua conoscenza della fisica, ma più che altro è il fatto che lo usano bene, perché tu dici molte delle cose che succedono nel gioco sono impossibili dal punto di vista fisico e sono solamente, cioè, magari appunto uno sente parlare di rapporto osservatore e cosa osservata e pensa, ah, quindi se non guardo un pianeta non esiste, o magari sta da un'altra parte. Era una cosa completamente, cioè, era un lettore superficiale, però tu dici, in realtà, cioè, secondo te hanno capito il principio e lo hanno applicato in una maniera che rende il gioco interessante, cioè che rende il gioco... Sì, sì, certo, cioè, è esattamente questo, cioè, nel senso, appunto, è chiaro che per creare un prodotto narrativo di fantascienza... andrei a ricamare un po' su, perché sennò non potrebbe andare, cioè in un certo senso non sarebbe fantascienza come la vedo io, capito? Sarebbe la realtà, come funziona. Però ecco, sì, può essere, sia da un certo punto di vista questa cosa, c'è, cioè, il rapporto di tra l'osservatore e quello che viene misurato è qualcosa che può far suonare un campanello anche a qualcuno che non l'ha studiata nel dettaglio, ma neanche io lo studio nel dettaglio, però diciamo... il gatto di Schrödinger, se non viene citato almeno una volta in ogni serie mainstream, non sono contenti, esatto. Quindi... Esatto, quindi dico, uno comunque può vederlo, e nell'ottica, diciamo, di quello che succede, leggendo le indicazioni che ti vengono date, è così anche carino come viene presentata quella cosa. Ok, ok, diciamo, c'è qualcosa che ti ha stupito sotto questo punto di vista? C'è qualcosa che invece ti è sembrato o magari sai essere invece molto accurato come rappresentazione? Perché adesso abbiamo parlato appunto del fatto della luna che scompare e vabbè, dici, cioè, è impossibile, non succederà mai, è una cosa, è pura fantascienza. Però c'è qualcos'altro invece che ti è sembrato... accurato o comunque a livello di esperienza accurato, se la cosa ha senso, cioè a livello di esperienza umana. Perché per esempio, che ne so, come funziona la gravità, come funziona, adesso non mi viene in mente un altro esempio tipo la cosa quantistica, cioè la cosa che scompaiono. Io, se posso essere sincero, sono rimasto impressionato da come hanno fatto il rendering praticamente dello spazio intorno al buco nero e al buco bianco, tecnicamente, cioè, il fatto di come la luce venisse distorta dalla presenza, sì. Quella mi è piaciuto molto, sono rimasto molto affascinato, che penso fosse una cosa che si era anche ritrovata, no, che nel film Interstellar, che hanno dovuto fare varie cose per, diciamo, rappresentare, sì, certo, ovviamente non a quei livelli, però anche qua anche lì non so se è veramente così che verrebbe visto un buco nero, non penso di averne mai visto uno di persona, diciamo, quello era sottinteso, però era l'ho trovata una bella rappresentazione, e anche da un punto di vista tecnico mi sono incuriosito, chissà come avranno fatto a farlo in quel modo, immagino fosse uno shader probabilmente. Mi è piaciuto anche perché la prima volta che cadi non sai cosa sta per succedere quando vai da lì e ti ritrovi lì all'uscita. Sì, quello è stato terrificante la prima volta. Io non ci ho capito un cazzo la prima volta, non ci ho capito nulla. E poi è stato bello perché ti presenta accidentalmente una nuova meccanica. Sì, sì. Mm. Figo. E quello, diciamo, vabbè, è una cosa abbastanza anche lì assurda e non fattibile, mi pare. Non so, anche lì non so, spessissimo di buchi neri. Diciamo appunto, le simulazioni sono fatte molto bene, ovviamente, come ti dicevo, credo che ci sia un riscalamento di ordini di grandezza della gravità, perché sennò sarebbe... sono troppo vicini i pianeti, ecco. Sì, no, ma lì l'hanno detto anche loro che era praticamente un universo in miniatura, se ci fai caso. Le distanze tra i pianeti sono misurate in chilometri, quindi nel senso delle decine di chilometri, non centinaia di migliaia. Sì, no, hai ragione, delle migliaia di chilometri, ma non delle centinaia di migliaia di chilometri, questo è il punto. Quindi sì, ovviamente era rappresentato come un universo in miniatura, anche perché poi... Una cosa che mi è sembrata capire, molto... lì bisogna capire a che punto si ferma la realisticità della narrativa e dove comincia, diciamo, le necessità di gameplay, le necessità per le meccaniche di gioco, tutto qui. Sì, certo, è sempre, capito, no, personalmente non è che mi disturbi il fatto che sono 10 km invece di 40.000 km, nel senso che capisco che devo andare dalla navicella da lì a lì e va bene, cioè nel senso, non è una cosa che dici, mamma mia, la gravità così in un secondo sarebbe tutto collassato se fossero così vicini, invece c'è. No, stai dicendo qualcos'altro, allora questo volevi dire a riguardo. Vi rispondo alla domanda perché adesso ci ho pensato, una cosa che è stata, appena l'ho vista, ho capito cosa doveva essere, è stata appunto la cometa, cioè nel senso, prima di tutto è fatta bene la traiettoria, perché le comete hanno non hanno l'ellisse solita, ma hanno più una parabola, fanno di... Ah, cazzo! Sole. Vero. E lì taglia proprio il sistema solare, quello lì. E poi proprio il fatto che tu ti avvicini e si scioglie, e quando ho pensato di andare lì, su quella cosa ghiacciata, quando sta vicino al sole, proprio... Yeah. È stata immediata, quindi se vuoi dire qualcosa che ti è sembrato super sensato dal punto di vista fisico, è stato quello, che senza leggere niente, come l'ho visto, ha detto vabbè, immediatamente questo... sapevi cosa fare. Sì, è vero. Ma anche la scia comunque aiuta, anche la scia mi sa che è fatta bene, adesso non ricordo di preciso come funzionano le scie, però mi sa che no, cioè io pensavo che la scia della cometa fosse solo di una direzione da cui proviene la cometa. Mm-hmm. Però in realtà lì è anche la direzione che il vento solare spazza via i pezzi di ghiaccio, no? O una cosa del genere. Comunque, vabbè, c'era qualcosa al riguardo pure che hanno studiato. Comunque, quello che dicevi prima era come rendere il tutto coeso, no? Cioè, tu prima hai detto, tutto quanto fatto in un certo modo, ed è vero, cioè. Gli sviluppatori hanno creato una simulazione, cioè tu in realtà, anche se ti sembra di vivere, diciamo, all'interno di un loop fisso, cioè completamente bloccato, in realtà è tutto quanto simulato, non c'è niente di finto, perché paradossalmente era più facile creare una simulazione che creare tutte cose, diciamo, fatte apposta, no? La cosa non mi fa ancora... Questa è fuori di testa, lo so, però è vero, cioè... Era più facile impostare simulazioni di gravità, di oggetti comunque che interagiscono fra di loro, di pezzi di pianeta che si staccano, di la sabbia che scorre da un pianeta all'altro. È tutta una simulazione. Il fatto di allinearsi con un ricevitore quando devi teleportarti, il fatto del... Cioè, è tutto quanto... Cioè, mi fa piacere che hai avuto questa impressione, Luca, perché... Il fatto che sia tutto coeso a livello di cose che si incastrano con la trama, meccaniche che si incastrano, di gameplay, cose, diciamo, fenomeni fisici esagerati, così, è tutto quanto, cioè, previsto, cioè, tutto quanto fatto apposta. Però, cioè, per andare oltre, diciamo, la parte fisica, cioè, non so se hai qualcosa altro da dire a riguardo di fisica, se no... Cioè, no. Anzi, io voglio... Io uno, come dire, scusami, non volevo interrompere. Di pure. Non, andiamo con ordine, che sennò qua ci sovrapponiamo. Io ho sempre un no, po' no, di lag. Mi sono esposto anche tanto. Avete anche rivelato che ho bazzicato per la fisica di contrabbando. Ah, perdonami, non si doveva dire. Era la cosa privata. Una cosa privata, troppo. Sì, sì, sì. Okay. Quando uno ha passato un po' turbolento. Ok, usiamo soprannomi adesso. Vediamo di non rivelare di più della tua identità. Quindi, Alfonso. Io in realtà voglio farti la domanda estremamente classica, estremamente banale, estremamente da rottura di cazzi, ma voglio sapere se c'è stato, visto che sei arrivato fin qui a volerne parlare, se c'è stato appunto un momento che tu dici, che ti ha fatto dire cacchio, io voglio andare nel podcast di Jacopo e Marco e parlare di questo momento, perché questa cosa mi ha eccessivamente, incredibilmente toccato, impressionato, metti tu l'aggettivo che preferisci o il verbo che preferisci. Sì, allora, sicuramente, se ne avete, adesso non so cosa avete 20 minuti perché non so cosa c'è nello scorso episodio, però sicuramente uno che già mi aveva annunciato Jacopo, no, mi aveva annunciato, mi aveva preparato Jacopo al momento in cui devi fare il salto tra i pesci. Sì, ti avevo detto che parte... avevo urlato quando l'ho scoperto, sì, l'avevo detto. Quello è emotivamente, diciamo, fortissimo, cioè proprio forte, forte, forte, perché proprio, cioè, il rumore, i versi che fanno loro, tu che sei fermo e guardi intorno e vedi questi che ti sono a un centimetro e non muovi niente, capito? È stupendo quello lì. Poi credo un momento sia stato quello in cui ho spento la luce nel tempio per arrivare nel sesto luogo. E sono arrivato a quel punto che, come dici tu, dici ok, devo spegnere la luce e riaccenderla. Uh-huh. Vedendo, mi è piaciuta un sacco quella cosa. Appunto, cioè, sono quei momenti in cui non è che dici ah, sono bravo così, però dici sono proprio in sintonia, ho capito cosa mi vogliono dire e cosa mi hanno insegnato fino adesso, insomma, ecco. Secondo me è tutta la parte della luna quantica mi è rimasta particolarmente impressa, mi ha particolarmente impressionato, perché era una cosa che, senza accorgermene, io ogni tanto non mi ero mai accorto di quanto effettivamente la volessi provare in un videogioco, anche perché mi ha ricordato tantissimo tutte quelle serie TV leggermente, stavo per dire esoteriche, ma diciamo quelle un po' metafisiche, non so, e dava tantissimo quella sensazione di mistero, di scoperta, di epifania anche, di serie televisive che mi vengono in mente come Lost, come può essere un po' X-Files, no? Che non ci sono Binge. Mostri, esattamente, non ci sono mostri strani, alieni ovunque o... come dire, siamo in un mondo di maghi, eccetera eccetera, è quella sensazione di no, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non rispetta propriamente le leggi della fisica e che il cervello se ne accorge, che il cervello se ne accorge appunto, e tu cerchi, come dire, di completare il puzzle, di capire bene che cosa c'è dietro, e tutta la parte della luna quantica, come dicevo, sembra un condensato di queste serie qui che si basano su questo sentimento di non essere proprio nella tua zona di comfort, no? Di essere un po' a disagio, un po' che capisci qualcosa che non va e poi dopo si riesce a collegare alla fine tutti i pezzi del puzzle. E ho ben pochi altri esempi, in questo momento probabilmente non me ne verrà in mente assolutamente nessun altro, di giochi che hanno fatto una sessione, un enigma così bene. L'unico che mi viene un po' forse in mente potrebbe essere Control, con la sua parte di labirinto, però anche lì non era un vero e proprio puzzle. Che coincidenza! Lì era che coincidenza! Lì era proprio l'atmosfera completa del gioco, con come dire, che ricreava un po' tutta questa atmosfera, ma non riusciva a metterla pienamente come gameplay, erano più esperienze visive, esperienze narrative in certi momenti, quindi anche quella lì va molto apprezzata da parte della Luna Quantica, quella credo sia veramente fantastica. Dico che coincidenza perché Luca ha giocato a me contro. tra gli altri, il gioco consigliato dopo era questo, sì, esatto. E vabbè, se vuoi parlare un attimo di controllo, parliamo pure di quello a sto punto, visto che abbiamo... Ma come si intitola questo episodio? Non lo so, è un episodio a casaccio, perché Marco mi ha detto, ha giocato Outer Wilds dopo che glielo ha detto di giocarlo come l'ho detto a te, così. Mi ho rotto le palle e ho detto, no, basta, cioè adesso facciamo l'episodio e fanculo, cioè, ne parliamo. Ottimo. Titolo sarà clickbait. Esatto, sarà un titolo clickbait, tipo non credete a cosa ha detto Luca Odis dei fisici. Allora, quindi vabbè. Non avete idea di... No, non potrete credere a come finirà questo universo, qualcosa del genere, ci sta. Esatto. Io volevo parlare un po' di questo, perché magari tu sei... Tu magari hai una visione più... del lato didattico, no, della, come si dice, del lato più di fisico, cioè dello stato attuale della ricerca e di quello che si crede sia il destino finale di un universo. Dici, cazzo, che cosa pesante, questo è un podcast così leggero. Devo preparare, qui non so niente, vabbè. No, sai, cioè, per quello che sai tu, che comunque, vabbè, hai studiato... e lavorato su argomenti limitrofi, cioè non è che tipo hai studiato, cazzo ne so, la fisica, quella de... boh. Non è che hai studiato, non so, idrodinamica, cioè nel senso, hai studiato comunque fisica di particelle, cioè fisica che era propedeutica a quello che devi fare tu, fisica matematica, quindi diciamo che lo stato del... cioè, posso dire, le verità fondamentali dell'universo sono a un passo, quindi cosa ne hai pensato del finale? Cioè, cosa ne hai pensato del... cosa ti ha lasciato? Perché quello che abbiamo visto appunto nei 20 minuti prima di questo episodio successivo, mm-hmm, è che io e Marco abbiamo avuto due sensazioni un po' diverse. Ok, sì, diciamo il finale nel finale ho completamente spento la... cioè, comunque ho usato la parola sensazione, quindi penso di potermi unire alla... Sì, sì, sì, non deve essere per forza ragionata, cioè, dico per come... cioè, lascia perdere le risposte fisiche. Sì, no, dicevo appunto che nel finale, la verità è che non ci ho neanche pensato, perché nel finale mi ha... è come se mi avesse preso appunto dal punto di vista emotivo, cioè dal... quello che mi è piaciuto del finale è che io avevo delle sensazioni che, mentre scorrevano le ultime scene, delle sensazioni che mi sembrava mi stesse comunicando in maniera chiara. Poi appunto, se già le vostre erano diverse, magari la mia sarà una terza ancora diversa, però ed è uno dei pochi casi in cui, quando il finale è molto, capito, un po' così, un po' rivedo i miei vecchi amici, un po' sta scoppiando l'universo, ma c'è la mia casa lì persa nel vuoto. Cioè, di solito quando è un po' nebuloso e non capisci bene cosa sta succedendo, a me fa ingazzà. Non è un lago, Luca, è un oceano. Esatto, e quando succede quello, quando non è un lago, ma un oceano, io di solito... Scusate, riferimento alla Wake che ha fatto tiltare Luca... Cioè, perché, capito, io poi dico là, ma vado su internet e dico, ma è così o era tutto un sogno, era tutto una cosa, quando non sai mai che cavolo, se cosa è reale e cosa no. E in questo caso invece l'ho apprezzato, perché la sensazione del finale, che era un po' di accettazione, di liberazione, di essere pronti per fare questo passaggio, è una sensazione che per me, cioè, mi passava in maniera chiara, non avevo dubbi, anche se magari voi avrete avuto altre sensazioni, però... è come se ti dice, io ti devo far provare questo tipo di sensazione e ci sono riuscito, ecco. Quindi questo. Noi abbiamo avuto due sensazioni simili, però secondo me adesso non so tu Marco, però abbiamo avuto la stessa versione che ho avuto tu. Cioè è questo ed è chiaro, cioè nel senso è chiaro che è questo. Non, appunto, cioè, non c'è un'ambiguità nelle emozioni che hai sentito in quel momento, in quello che il gioco doveva dirti dal punto di vista emotivo, e secondo me c'è un po' un parallelo con Dark, nel senso che è vero che magari non chiude al 100% tutto quello che hai dal punto di vista logico, come domande, come struttura, come regole regole fisiche, no, dell'universo in cui si svolgono i fatti, no, però come in Dark non serviva nemmeno, cioè, sì. Esatto, non serviva, cioè come in Dark non è importante, ti chiude dal punto di vista emotivo in un modo che è comprensibile, che è diretto, che dici questo era un po' il senso, te lo contestualizza in questo senso, che magari è solo il tuo, no? Cioè io mi sono trovato abbastanza più in sintonia con quello che hai provato tu, e di conseguenza poi mi ha fatto un po' ragionare su altre cose, però magari appunto un altro, diciamo, non c'è altre motivazioni, non so. Certo, sì. E quindi l'universo finisce. Ok. E finisce. No, lo so, volevo fare un discorso con un botto. Un botto, esatto. Un big non, botto. Non con un bang, ma con un sussurro, è questo che è. Con uno scrosciante applauso. No, finisce con una canzone. Volevo fare un attimo una piccola digressione sulla colonna sonora. Che a me è piaciuta tantissimo. Non mi ricordo se ne abbiamo parlato la scorsa settimana, però è una cosa così semplice che piano piano aumenta di complessità, e la cosa che mi ha fatto schiattare alla fine, cioè che mi ha fatto veramente, che mi ha distrutto alla fine, è il no mai che cerca di aggiungersi e all'inizio non riesce, cioè nel senso all'inizio è stonato, cioè va un po' male col ritmo, col piano forte. Sì. Ti è rimasta un po' questa colonna sonora? Cioè ti è rimasta un po' la musica? Ti ha un po' colpito? Oppure è una cosa che... Sì, mi ha colpito tanto, diciamo, il bello... cioè a me la parte di musica che ha lasciato di più appunto era... quando inizi a fare la musica che stai capendo che il sole sta per fare la botta, no, tipo la sveglia la mattina, quella, no! quella del ventinesimo minuto, devo finire questo, invece devo... la sono in una notte quella, esatto, però era una scelta bella, è tipo era una scelta tipo quelle che fa Tarantino delle musiche, capito? Non era tipo una roba, la musica tipo sta per finire tutto da pianista, così era. Oppure ta-da-da, capito? Era... Dici, non è melancolica, ma sembrava semplicemente quasi un crescendo, quasi un climax o qualcosa del genere. Aveva quel suono lì che non è... Sì, esatto, non era direttamente... Non ti insultava, cioè non è che ti prendeva per il culo, ah, e non è che ti faceva venire l'ansia, era solo per dirti, ehi, svegliati, tipo, è tipo una sveglia, no? Cioè ti dice, fai quello che devi fare perché... Piamo e ce ne andiamo, cioè nel senso è ora di chiudere baracca e di ricominciare. È vero, questo non ci avevo pensato. Perché mi ha fatto così ridere ora di chiudere baracca? E... Alla fine di tutto, cioè... dopo tipo sono passati 20 miliardi di anni, raga, e basta, chiamo baracca. Esatto. Lo guardi alla fine dell'universo. Vabbè, abbiamo parlato, vabbè, di cose fisiche, abbiamo parlato del finale, abbiamo parlato della musica. Indirettamente un po' l'hai detto, però, cioè, a livello di meccaniche così, c'è qualcosa che ti è piaciuto particolarmente o che non ti è piaciuto particolarmente? O... Beh, allora... Cioè, io posso indovinare, cioè, nel senso, io posso provare a indovinare, però... Diciamo, Jacopo mi ha seguito. Quindi togliamoci prima, perché a me piacciono sempre più le cose belle che le cose negative. La cosa negativa è che a volte sono stato un po' frustrato nel non riuscire a fare... cioè magari mi risvegliavo e andavo e sprecavo un intero ciclo così. Però effettivamente ho fatto, dopo rivedendo con Jacopo tutto quanto, stavo facendo le cose in ordine opposto, cioè stavo cercando quasi di finire il gioco senza avere informazioni prima. Quindi, diciamo, un po' è stata perché non so per quale motivo andavo a fare le ultime cose prima. Se no, come mi aveva già annunciato Jacopo, c'è tutto quello che devi sapere purché tu cammini abbastanza in giro e poi sul registro c'è tutto. Diciamo, la cosa che mi fa, che sicuramente me lo fa giudicare come uno dei migliori, e diciamo dipende dal mio gusto personale, è che se un prodotto è un videogioco, per essere un videogioco eccellente, dal mio punto di vista, deve utilizzare il fatto di essere un videogioco. E questo per me vale per ogni forma artistica, cioè nel senso, se sei un film, devi utilizzare il fatto che sei un film. E saper usare colori, immagini, montaggio, cioè insomma, capito così. Quindi se un'opera d'arte usa il mezzo che utilizza, cioè la forma d'arte usa il mezzo che lei stessa è, secondo me è quella a cui tu dici, ah, questa per me è un 9, un 10, capito? Dal mio punto di vista. E questo gioco lo fa, ecco. La prima cosa è l'idea del salvataggio... Vabbè, più o meno è sempre questo, diciamo. La prima cosa è questa idea, appunto, di che tu ricominci, e voi ne avete parlato nei primi episodi di questo, dite, nel videogioco uno pensa sempre ai Pokémon, scusate per il trigger. Oddio, no! Che pensa, cosa hai fatto? E dice, Luca, se io devo superare un ostacolo... Mega Marco! Esatto. Se devo superare un ostacolo in un videogioco... e non lo riesco a superare, vuol dire, ah, ok, no, devo andare a prendere il fucile più grande perché lo supero. No, a volte nel videogioco quello che ottieni da una run all'altra è l'aver imparato qualcosa. E questo è diciamo, secondo me, la colonna del gioco, no? Che tu ricominci esattamente ogni volta dall'inizio con gli stessi oggetti. Hai tutto già dall'inizio e puoi fare tutto già dall'inizio. Cioè, se tu letteralmente... Se sai il finale, cioè se sai come funziona, inizi a giocare e dopo 18 minuti finisce il gioco. Quindi diciamo, questa come pilastro fondamentale. Allora, prima di tutto voglio dire che già il fatto che tu hai detto che secondo te un bel gioco deve utilizzare il fatto di essere un gioco non è banale, cioè già quello... E niente, dobbiamo chiamarlo ad ogni episodio adesso. Esatto, questo membro sei membro fisso da adesso. Esatto. Cioè, Greg, seconda... Clark e Luca. esatto, il pezzo recording. Recording Luca. Now record. L'altra cosa che hai detto, cioè il fatto che il gioco si basi su questa cosa della conoscenza, pure non è banale. Cioè, perché comunque il gioco ti dà un senso di progressione che è fuori dal gioco. È come dire, ok, è tutto giustificato, nel senso tu hai... come Dark Souls, hai questa giustificazione nel gioco del perché ti stai nascendo, stai tornando nel focolare, cioè hai tutte queste imbarcature, no, di trama e di gameplay per giustificarti quello che sta succedendo, ma comunque la nave non è che tu ogni volta che sali sulla navicella c'è lui che tipo si deve scrivere le cose perché se non se le scorta e perdi tipo un minuto, cioè la nave è come se già facesse parte di te, no? Quindi la nave ti aiuta perché ti si ricorda tutti quanti i loop che hai fatto in maniera, cioè, precedentemente. Però nonostante questo rimane questa idea di fondo che, come hai detto tu fin dall'inizio hai tutto, cioè tu fin dall'inizio il gioco, quando, cioè, come posso dire, non so, adesso magari tu mi dici che sto sbagliando, però quando ti sei bloccato, a parte una volta dove effettivamente avevi ragione tu e il gioco sbagliava, cioè, non so, ti ricordi quando, sicuramente ti ricordi quando stavi sulla stazione solare. Sì. Vuoi dire cosa è successo? Beh, ho provato a fare il salto 5-6 volte, ogni volta andavo di muso e... Esatto. Perché la stazione solare, vabbè, hai quei due pilastri e tu da un certo punto apri il portellone e devi saltare come un salame in avanti e io continuo. Ah, ma quindi non è successo solo a me, porca. Beh, no, lì... ricordo che l'ho fatto al primo jump, ma perché effettivamente si può fare al primo jump, se tu non sai, cioè, è una cosa casuale a me sembra, no? C'è qualcosa nel sistema di gioco che impazzisce l'intorno, quindi... in realtà lì, guarda, lì forse è stato veramente l'unico un po' errore che giustificherei del game design, cioè che ti passano tutto il resto del gioco a farti capire quanto sia fisico l'universo, quanto... lo spostarsi sia dovuto alla fisica e considerare l'inerzia e accelerazioni e chissà che cos'altro, e poi lì in una stazione che orbita a chissà quale velocità attorno a un sole, uno ti verrebbe a dire ok, quindi devo pensare come lo devo angolare questo salto, no? Perché ci saranno accelerazioni, no. E invece no, e infatti lì era forzato, lì secondo me c'è una cioè deve essere una qualche area, sì, sì, un bound che ti fa muovere sufficientemente, esatto, in maniera giusta per arrivare dall'altra parte senza troppi cazzi, solo che uno effettivamente lì istintivamente, visto tutto il resto del gioco, non è la prima cosa. In realtà la cosa che dovrebbe darti l'indizio è che ci sono dei detriti in mezzo tra i due che stanno, infatti, sempre lì, sì, però... è vero anche quello, però anche lì, come dire, uno almeno quando ci sono arrivato io ero già abbastanza, come dire, agitato, mettiamola così, impanicato di mio, perché voglio dire, era una situazione, sentivo che stavo avvicinandomi alla verità, no? Stavo avvicinandomi alla soluzione finale e... Ah, non si dice! Ok, al... comunque no, beh, mi immagino comunque tipo, che ne so, uno scienziato nomade da qualche parte sulla luna o dove cazzo era, in lo stesso luogo, che sta tipo tracciando i tempi di loop a un certo punto, perché questi 5 loop durano 30 secondi? A un certo punto, cioè, hai avuto un abbassamento della media di loop enorme. Comunque, vabbè. I miei loop preferiti sono quelli in cui partivo a razzo, proprio dovevo andare su dal collo e finivo nel sole e cose del genere. Quante volte è successo, sì. Dark Bramble, no? Comunque sì, stavo dicendo, cioè, mi è sembrato un gioco abbastanza giusto, nel senso, appunto, come dicevo, le volte dove ti vedevo che ti bloccavi, non erano posti che sembravano ingiusti, no? Cioè, nel senso, c'era sempre un motivo, c'era sempre qualcosa che non era al di fuori del tuo controllo, se non ricordo male. Poi vabbè, tu altri esempi. E quindi questo, appunto, perché adesso... abbiamo fatto la digressione di mezz'ora su vari incidenti, che però non è questo, però effettivamente la ci penso è una parte divertente del gioco, cioè il fatto di morire in maniera assurda e con achievement, no? Gone in 60 seconds, se non sbaglio, morire nel più, no? Sì. non l'hai sbloccato te, no? No, adesso arriva lo sburone, c'è l'achievement se muori nei primi 60 secondi di gioco, se non ricordo male. Ma sì, i 60 secondi del primo loop o di qualsiasi loop? No, di qualsiasi loop, nel senso dei primi 60 secondi di loop. Io mi ricordo, l'ho vista apparire a bordo schermo la prima volta che sono andato nel sole, come dicevo, partito a razzo, vai, si va su Dark Bramble. Cos'è questo bagliore giallo? Esatto. Tra l'altro ho scoperto che ci sono finali alternativi che io non conoscevo. Quelli sono geniali, quelli sono bellissimi. Ecco, secondo me quei dettagli lì sono un altro sintomo, un altro... quando trovi dettagli del genere all'interno di un videogioco, capisci che gli sviluppatori ci tengono al videogioco, perché se non se lo... non metti cose del genere se te ne sbatti il cazzo, perché... Sì, cioè, nel senso, no. un tester ha trovato quei problemi e invece di risolverli hanno detto no, mettiamoci in che è un problema di questo universo, cioè nel senso è che tu puoi spaccare la realtà togliendo un buco bianco. Uno l'ho anche fatto io, quello del... appunto quello lì del buco bianco. No, sia io che Luca per qualche motivo abbiamo rotto il gioco, nel senso che cioè, mi sono accorto guardando la run di Luca, a un certo punto tu stavi sulla luna, ah, forse ti ricordi, tu stavi sulla luna e sei andato al polo nord, mi pare. Esatto, perché il punto è che tu devi raggiungere il polo nord e la luna per o per trovare il tempio o qualcos'altro, ma non mi ricordo. O no, aspetta, dovevi... No, doveva... Il... No, il polo nord della luna è dove trovavi... Solanum, forse? Era come dire, era la destinazione finale del pellegrinaggio dei nomai, quindi era dove trovavi l'ultimo nomai rimasto, praticamente. Esatto, sì. Che non dovevi... Sì. E poi ti dava alcune risposte, cioè era quello il punto. Ottenevi altre informazioni. Ma sei sicuro che era il polo nord della luna e non Solanum, cioè non il sesto luogo? No, no, no, no, no. Il sesto luogo... Cioè, ci arrivavi al sesto luogo ed era dove trovavi l'ultimo nomai, praticamente. Ah, ecco, esatto. Sì, okay. Sì, però nel senso... Cioè, la luna orbitava attorno all'occhio, però non potevi arrivare all'occhio dalla luna. Sì. Era questo. Cioè, vabbè, nei dettagli, comunque sì, c'è cioè il sesto luogo, era poi dove trovavi il nomai ancora in vita, perché anche lo trovavi anche negli altri posti, ma era morto, quindi, come dire... Come, vabbè, se mi sto perdendo nei dettagli, di quello che... Luca, ti abbiamo interrotto di nuovo, vai pure, di pure. No, cioè, diciamo, il punto è che, come dicevi tu, appena arrivi ti dice per qualche motivo si riesce solo a atterrare al polo sud. Esattamente. Il polo nord della luna, in tutti... in quasi tutti le sue forme in cui si manifesta è in qualche modo murato e se tu provi a fare il saltino con la navicella poi ovviamente smetti di vederla e quando riatterri sei di nuovo al polo sud, non è come in Profondo Gigantesco che tu fai il salto e entri dentro dove dovresti arrivare, è una delle cose della luna. E io ero appena arrivato e avevo capito la cosa della telecamera e ho detto sai che io pianto la telecamera che guarda la luna e questa non si può muovere. Ed effettivamente ha funzionato perché si era buggata tipo quando con Minecraft vedi tutti i piani sotto che ti si bugga e vedi tutti i livelli così e si era bloccata, effettivamente era andato in un altro posto, però era super mega buggata non... Lo usano per le run. Sì, esatto, Luca Odis speedrunner ha rotto la geometria della luna usando la geologica del gioco. E quello neanche gli sviluppatori l'avevano previsto. Non so se l'hanno panciato nel frattempo, però non credo. Chissà. Sarebbe da chiedere. E quindi no, cioè, figo. Cose fighe, effettivamente. Morire in modi diversi. Un mio modo di morire in modi diversi. Però che volevo dire... volevo fare un altro discorso, mi sono scordato adesso. Qualcosa di meccaniche. Ah, il puzzle quello lì delle porte, Lu. Esatto, quello invece parlando di meccaniche vere e proprie, tipo di... non intendo a livello alto, proprio a livello di meccanica, cosa che devi fare come videogioco, prova che devi superare, quella lì era sicuramente super bella, super originale, con le porte, con i cristalli che dovevi guardare le cose... E tutto quello che sta, diciamo, nella torre della conoscenza quantistica, come si chiama quella lì, insomma. No, vabbè, spettacolare. Cioè, quella roba lì, ci si potrebbe fare un gioco solo su quella roba lì, cioè, nel senso, è perfetta per un gioco, paradossalmente, forse è la cosa più simile al videogioco di tutto quel gioco lì, cioè, è la cosa più... Come dici tu, cioè, è originale, però è riconoscibile, no? Cioè, come... Sembra quasi una roba alla Portal, non so, alla... Sì. Giochi simili Portal, però ci si potrebbe fare un gioco a parte, cioè, boh, nel senso... Mi è piaciuto tantissimo, ecco. È vero, sì. Una cosa che mi ricordo l'ho praticamente... Come dire, mi ha colto di sorpresa perché veramente non mi aspettavo di... la meccanica della fotografia per la parte quantica del gioco, tra virgolette, e avevo scoperto Non mi ricordo neanche in che ordine l'ho fatto, però mi sa che avevo fatto, ero arrivato prima a trovare la seconda regola, praticamente, quella che diceva quella nelle grotte dei pianeti Clessidra, dei pianeti gemelli, non Clessidra, che chiamano Clessidra. E poi sono arrivato lì e mia sorpresa ci è rimasto di stucco ed è stato lì un po', sempre come dicevo prima, la parte di in cui collegavi tutti i puntini, dice aspetta, ma allora posso andare sulla luna quantica, mannaggia. È stato molto figo. Ero completamente scordato dell'esistenza delle sonde finché non mi sono servite per la cosa fantasma, l'energia fantasma, come si chiama, per evitare le pozze assassine. Esatto. Invece Luca... Luca devo dire che non se l'è scordato. Luca l'hai fatto sempre casaccio, come si dice, qualche volta non funziona più del dovuto. Un po' troppa... No, cos'hai fatto di così? No, diciamo... tutti i tipi di sonde, cioè anche nel forse in Dark Bramble, quando dovevi usare quella dei suoni, invece l'altra sonda, quella che c'è sulla navicella, Jacopo mi ha detto: io non ci ho pensato subito, però io stavo lì, dicevo, come faccio a trovare qualcosa? Premi Y per la sonda di suoni. E... però così no, però... dimmi. No, cioè, dico, ok, quella io, cioè, non ci ho pensato subito, manco io, però alla fine ci sono arrivato. Cioè, non ci ho pensato subito io. Però... dici quello del segnale di emergenza della navicella? Esistono. Però io dicevo, più la sonda quella che spari, la sonda che c'era la fotocamera, dico. Sì, diciamo, quella sia sulla Luna, sia per la Luna e poi perché altro... è usata a Mato. Però per la Luna hai fatto, cioè, a caso, nel senso tu non... No, per quello dico, l'ho usata a prescindere dal capo, esatto, sì. Non è da tutti, però, perché, cioè, io non l'ho usata, per esempio, perché mi sembrava una di quelle meccaniche opzionali. Vedi, cioè, io ho avuto un po' il problema... cioè, non so perché mi ha abituato male a Assassin's Creed, però mi sembra tipo la prima Assassin's Creed, no? Che tu dici, sì, è utile, però, cioè, puoi andare dritto ed serve solo prepararti, no? Cioè, a guardare avanti cosa c'è dopo, a segnarti dove devi andare. In effetti credo che alla fine la meccanica delle fotografie per mantenere stabili gli oggetti quantistici fosse tipo un supporto, ma non necessaria per arrivare tecnicamente al finale, alla fine della luna quantica, perché... No, come fai? In realtà lo puoi fare, ti serve più che altro per evitare di commettere errori nel mezzo, che dici, ti svolti per un attimo la telecamera nel punto sbagliato e ti accorgi di aver fatto scomparire una cosa che era necessaria star lì. No, forse mi sto confondendo. No, o mi sto confondendo. Adesso farò una run sfida, raggiungerò il polo nord della luna quantica senza usare la fotocamera, adesso ci provo. Ma mi sarà proprio raggiungere la luna, perché se no, mi sa che non riesce a atterrare se non gli fai la foto. Quello è il punto, cioè, non lo so in realtà, perché va bene, vediamo. Sono stato stronzo io, ma nel senso, mi ricordo che un paio di volte sono atterrato un po' alla Benecane con Marco, con la luna, facciamo la speedrun, vediamo quante ore ci metti a fare la speedrun del gioco. Ti mando la mia run dove raggiungo il polo nord della luna quantica senza usare la fotocamera, dai. A parte scherzi, per finire il gioco non credo che serva la telecamera, effettivamente. Cioè, se vuoi solamente per finire il gioco non ti serve andare neanche sulla luna quantica. No, sì. Dico, non serve proprio, cioè. Dopo lo ricordo, basta che prendi il reattore e vai, cioè, non è che devi fare foto, cioè. Sì, beh, teletrasporto, vai lì, bla bla bla bla, forse no, sì, esatto. Va bene, però voglio vedere Marco che finisce il gioco, cioè che va sulla luna quantistica senza usare la fotocamera. Va bene, dopo ti faccio il video. Poi lo carichiamo su YouTube, low percent speedrun, no camera. Va bene. Io non ho in mente altro da dire, da chiedere al Lupino. Ammazzo quante domande mi avete fatto. È stata dura questa? Questa è stata dura questa registrazione. Interrogazione, dai. Io so, Luca, ma cosa vuol dire? Ma noi eravamo, in realtà io volevo tentarci, cioè, volevo tentarti, volevo buttartela lì dicendo: Luca, lasciati andare, parla dei sentimenti che hai avuto giocando Outer Wild, raccontaci, Luca, lascia parlare la tua voce. E invece poi domande, invece argomento a piacere è andato a... No, però ti ho visto più... Non è una critica, nel senso ti abbiamo alla fine ci siamo guidati un po' di più con delle domande, ma no, sì. Luca, ultima domanda. Allora, aspetta, ok, vai di pupo. Allora, penultima domanda, poi l'ultima la fa Marco. No, la mia è una domanda di merda. Se Outer Wilds fosse un libro, tu saresti un sandwich, Luca? No, perché no, aspetta, faccio il contesto. Luca è l'expert, hashtag expert di lore di Halo, sta leggendo tutti i libri. Ah, ok, perfetto. Ottimo, questo non ne avevo. Quindi, vabbè, i libri di Halo, sono libri di Halo. Storia, fantascienza, cose così. Se fosse scritto un libro, diciamo, usando come base l'universo di Outer Wilds, no? Mm-hmm. Che libro sarebbe? Un poliziesco? Un dramma in costume tipo Orgoglio e Pregiudizio? Poi in costume, non puoi dire. In costume? Ah, no, in costume. Cioè, dico, un dramma d'epoca, una cosa tipo alla... Non so. Madonna. Pensavo andasse in un'altra direzione la domanda adesso. Il libro di Fabio Volo? Un libro di... Non lo so. Madonna, ma questa la devi fare a Umberto Eco, la domanda è così. Sarà sicuramente un libro di... Oddio, come si chiamava quello che ha scritto Tre metri sopra il cielo? Dio mio, ma perché? Come si chiamava? Oddio! I Baci Perugina, che adesso fa i Baci Perugina. Esatto, come cazzo si chiama quello? Aspetta. Umberto Eco, non lo so, vabbè. Mi sta venendo Umberto Eco, perché no? Moccia. Moccia, cazzo. Ah sì, Umberto. Federico Moccia. Federico, non Umberto, un altro. scusate, ho dovuto fare la domanda. È il primo romanzo rosa di Federico Moccia, a quanto pare. Sì. Oddio, lo è del 92, ma per l'amore di Dio. Cavolo, come siamo di noi? Hai rivelato altre informazioni personali, Luca. Occhio che... Oddio, quando siamo nati noi, inteso come lo stesso secolo, ecco. Ecco, esatto. Va bene. Quindi abbiamo finito. Forse abbiamo veramente detto tutte le stronzate che dovevamo dire su Outer Wild, se non, come dicevo prima, la mia ultimissima domanda per Luca, poi non gli rompo più il cazzo. Luca, adesso mi sono anche un po' dimenticato come l'avevo formulata nella mia testa poco fa. Andiamolo proprio a vacca. Hai considerazioni finali? Hai un'ultima cosa da dire su Outer Wild? Se poi sapessi non doverne più parlare per un po', che cosa diresti infine, no? Per chiudere tutto il discorso. Ok, no, mi piace la domanda. Premetto che ho detto tutte le cose importanti che ho pensato, quindi le domande le avete fatte proprio anche adatte. L'ultima cosa è un'impressione positiva che mi ha dato è che io ogni tanto ho questa impressione, ho questa paranoia in generale appunto dell'arte, che a un certo punto si siano già inventati tutto e non si possa fare nulla di nuovo. Invece il sapere che è stato fatto un gioco del genere, che è uscito nel 2018, mi fa dire, cavolo, ma allora si può ancora fare qualcosa nell'arte, capito? Quindi questo è un messaggio positivo, capito? Non è che adesso ormai saranno tutte autocitazioni di cose vecchie. Si può ancora fare qualcosa quindi di stai nuovo, dicendo bello. Che stai dicendo basta i remake al cinema, basta. Forse il mio inconscio lo vuole dire effettivamente, diciamo, perché io lo penso questo, davvero sono stupido in positivo, perché ho il tarlo nella testa ogni tanto, come a dire quando vedi un capolavoro a volte non hai l'impressione che dici cazzo ma non uscirà mai niente di, oppure dai ormai hanno fatto tutti i generi di film, tutti i generi di storie possibili, io ce l'ho ogni tanto questo terrore. E invece, capito, il fatto che esca qualcosa con così tanto da dire di nuovo nel 2018, che adesso praticamente, mi rassicura. Sì, forse questa è l'ultima considerazione positiva che vorrei fare sul gioco. Bene. Bello. Quindi, bella considerazione. Siamo arrivati questa volta veramente ai saluti di questa puntata numero... E quindi... quindi che dire, grazie per averci ascoltato, questo è stato un altro episodio del Focolare Elettrico, no. E io sono Marco, ok, anche questo verrà montato, okay. Pensavo volessi montare anche questo in post produzione, con noi c'è il nostro ospite, no, oggi non siamo reattivi oggi, vero? Luca, che non ha voluto partecipare alla... No, raga, mi ti sei mutato un attimo, Marco. Però comunque, perfetto, fantastico. Io sono Luca, sei fatto la cosa di io sono... Ok. Giuro problemi che tecnici? Non vi ho sentito, lo dicevate. Perfetto, problemi tecnici e niente, continuate a giocare. Ciao a tutti. Ciao.